4B. Ascolta e rispondi. Cosa prendesti al bar? Presi solo un caffè. Cosa prendesti al bar? Presi solo un cappuccino. Dove mettesti i libri? Li misi nella borsa. Dove mettesti i libri? Li misi nella valigia.